anche al di là della sfera pubblica nazionale ed internazionale, bisogna che la discussione dialoghi come un'onda feconda nella sconfinata sfera privata, a chiarire, illuminare, indirizzare, a rendere possibile cioè un tono e un calore nuovi nei rapporti tra adulto e fanciullo, onde essi siano impostati sempre secondo criteri sanitari, psicologici, educativi, pienamente rispondenti alla raggiunta più esatta coscienza della struttura psichica e fisica infantile e delle sue specifiche reali esigenze. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dal libro di Riccardo Bauer, Educare alla democrazia e alla pace, scritti scelti 1949-1982, raccolto edizioni, 272 pagine, 15 euro. Letture di Radio 24. L'Eurobarometro è uno strumento di indagine e statistica che l'Unione Europea si è data per tenere il polso e confrontare i dati economici, sociali e politici tra i singoli Stati membri. In una delle sue ultime ricerche, l'Eurobarometro ha testato la stima dei cittadini nei confronti dei propri parlamentari. Per l'Italia i dati sono poco confortanti. Il distacco degli italiani dalla politica non è mai stato così forte. Ce lo dicono tutti i sondaggi disponibili. Secondo l'Eurobarometro, la percentuale di italiani che si fida del Parlamento, già 2/3 di quella di Francia e Germania, è scesa negli ultimi 10 anni di 10 punti. È un fenomeno presumibilmente destinato ad accentuarsi ulteriormente dopo lo spettacolo desolante delle ultime settimane. Parlamentari che aspettano fino all'ultimo minuto per decidere se votare o meno la sfiducia, una strategia ottimale per massimizzare il prezzo al quale si vende il proprio voto. Un esecutivo che tiene vacanti 14 posti chiave nel mezzo della crisi più grave del dopoguerra, pur di avere poltrone da offrire ai nuovi acquisti. L'esplosione di nuove sigle, di partiti con un solo deputato, tali da tenere in scacco partiti con milioni di voti. Sono ormai 12 i partiti di cui si compone la maggioranza del 14 dicembre. Il presidente in pectore della Consob, Giuseppe Vegas, che vota per mantenere in vita il governo che lo ha nominato al vertice di un'autorità che dovrebbe essere non solo di nome indipendente, dando una dimostrazione di totale dipendenza dalla politica. Si dice che non c'è limite al peggio, ma abbiamo già abbondantemente superato ogni limite di decenza. La sfiducia nei confronti della classe politica è diversa da quella dei tempi di Tangentopoli. Questa volta sembra travolgere indiscriminatamente l'intera classe politica, senza distinzioni di campo e di persone, mettendo i politici corrotti o coinvolti in illeciti, ai quali non pochi elettori sembrano aver fatto il callo, assieme a politici onesti e competenti. È un fenomeno pericoloso in quanto priva di rappresentanza politica il crescente disagio per le condizioni economiche del paese. È tornato ai livelli di 10 anni fa. La pressione fiscale continua ad aumentare, nonostante la bassa qualità di molti servizi pubblici. I giovani hanno più di 3 volte degli altri la probabilità di essere disoccupati e 10 volte di essere poveri. Gli immigrati sono messi in competizione con la popolazione autoctona nell'accesso a servizi di base, come gli asili nido. Il rischio che questo disagio sociale trovi sbocchi violenti è tutt'altro che remoto. E non può essere rimosso liquidando episodi come quelli delle ultime settimane, come un semplice problema di ordine pubblico e di minoranze organizzate. Importante perciò trovare un modo di trasformare il distacco in sostegno a riforme in grado di migliorare i meccanismi di selezione della classe politica e la sua responsabilizzazione al cospetto degli elettori. Non si tratta di introdurre vincoli di mandato che, oltre a essere incostituzionali, finirebbero per privare il Parlamento di maggioranze trasversali su riforme importanti per il Paese. Né è un problema strettamente di legge elettorale, un tema che non appassiona l'opinione pubblica e che divide sia la maggioranza che l'opposizione. Il passaggio chiave è quello di ridurre drasticamente il numero di parlamentari, ridisegnando le circoscrizioni in modo tale da aumentare la competizione fra i partiti. Abbiamo molti più parlamentari in rapporto agli elettori delle altre democrazie consolidate e i politici corrotti o incompetenti vengono spesso eletti in roccaforti, circoscrizioni in cui il loro partito non ha rivali. Una ricerca di Vincenzo Galasso e Tommaso Nannicini per lavoce.info mostra come i colleghi in cui l'esito del voto è più incerto mandano in Parlamento deputati con maggiori esperienze amministrative e mediamente più istruiti di quelli dei collegi sicuri, dove invece dominano i funzionari di partito, quelli che hanno svolto l'intera carriera nella politica di professione. La competizione elettorale obbliga i partiti a scegliere candidati migliori e stimola i cittadini a studiare più a fondo le qualità personali dei candidati. L'unica ragione per cui nessun partito oggi all'opposizione ha voluto sin qui impegnarsi in una battaglia per ridurre il numero dei parlamentari è che questa battaglia non trova sostegno fra chi fa politica di professione. È come se i docenti universitari votassero per ridurre il numero di posti in organico. Ma sono proprio proposte di questo tipo a legittimare l'operato di un governo di transizione prima di tornare alle urne. E chi dall'opposizione continuerà ad ignorarla rischia di regalare uno spazio enorme al populismo e all'antipolitica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il Paese senza politica di Tito Boeri, pubblicato da Repubblica del 21 dicembre. Nel gennaio del 2009, Roxana Saberi, giornalista americana di origini iraniane, si trova a Teheran per un'inchiesta, quando viene prelevata da quattro uomini che la conducono nel carcere di Evin, noto luogo di detenzione e tortura dei prigionieri politici. Qui subisce una serie di interrogatori da parte di Javan, nome in codice di uno degli agenti del servizio segreto iraniano. Doveva essere tardo pomeriggio quando tornai nella stanza degli interrogatori, di nuovo con gli occhi bendati. Udii qualcuno camminare lentamente verso di me e ordinarmi di sollevare un po' la benda. Obbedii e vidi che Javan mi sventolava sotto gli occhi un fascicolo. «A casa sua abbiamo trovato questo», disse. Era un articolo che il suo collega doveva aver scovato nel mio armadio il giorno prima. Non lo vedevo da secoli. «C'è qualcosa di male?» chiesi. «Nel suo appartamento ne abbiamo trovati diversi», replicò. «Dove li ha presi?» Spiegai di averli presi al centro di ricerche strategiche, dove avevo assistito ad alcune conferenze e, su richiesta di un amico, avevo corretto l'inglese di alcuni articoli. Avevo sperato che questo potesse contribuire alla comprensione dell'Iran all'estero. Dissi alla gente che i dipendenti del centro sapevano che ero interessata a un'ampia gamma di argomenti e mi davano spesso articoli da leggere. Javan alzò nuovamente il fascicolo e disse deciso: «Questo è un documento segreto!» Stava mentendo. «No, non è vero», dissi con sicurezza. «Sono informazioni pubbliche». «È segreto! Se è davvero segreto, dov'è il timbro?» Avevo sentito dire che in Iran i documenti segreti erano contrassegnati da un timbro. Non ebbi alcuna risposta. Invece ripresero le domande e la mia difesa. «Perché ha tradotto delle interviste per un giornalista iraniano che poi le ha pubblicate sul suo giornale moderato?» «Perché lui non sapeva l'inglese. Quanto l'ha pagata?» «Niente, l'ho fatto gratuitamente. Non le crediamo». «È vero, era un mio amico e volevo solo aiutarlo». «Chi erano il signor B, la signora C, il signor D?» chiese Javan, saltando all'argomento successivo, dopo che avevo scritto un'altra risposta da lui considerata insoddisfacente. «E cosa volevano da lei?» Si trattava di vari amici americani, conoscenti o persone intervistate con cui in un modo o nell'altro ero rimasta in contatto nei 6 anni precedenti. «Nessuno voleva nulla da me», risposi. «Uno era un amico giornalista che alcune settimane prima mi aveva mandato un'email dall'America. «Sappiamo che lavora per il Seattle Post Intelligencer», disse uno degli agenti. «Sì», risposi. «Fa il fotografo». «Quel giornale è uno strumento della CIA», continuò. «Che intende?» «Nel nome ha la parola intelligence». Per poco non scoppiai a ridere incredula. «Per quanto ne so, il giornale non è legato in alcun modo alla CIA», dissi. «Io davvero non conosco nessuno nella CIA». «Cosa volevano tutte quelle persone da lei?» chiese di nuovo Javan. «Niente». «Sciocchezze!» urlò. «Sappiamo che uno di questi americani voleva che usasse le interviste e le ricerche per il suo libro come copertura per raccogliere informazioni segrete per il governo degli Stati Uniti. Ci dica chi, quanto denaro ha ricevuto, che informazioni ha fornito». «Non raccoglievo informazioni per nessuno», dissi alzando la voce. «Come le ho detto, il libro che sto scrivendo è un progetto personale e non ha niente a che vedere con qualche istituzione o governo. E come io ho detto a lei, sono allergico alla parola libro», ribatté Javan. «Ma è la verità», insistetti. Sta mentendo, disse pronunciando le parole come se le gustasse prima di farle uscire dalla bocca. «Non sto mentendo», esplosi. Non potevo starmene seduta in silenzio mentre quegli uomini mettevano in dubbio la mia integrità. «Mi faccia il test della verità», implorai come il giorno prima, «e vedrà che non sto mentendo. Si metta a posto l'hijab», tuonò un altro inquisitore. «Pensa di stare in America?» Nella foga, il chador mi era scivolato indietro, rivelando alcune ciocche di capelli. «Scusate», piagnucolai. Tirai in avanti il velo e mi accucciai nel banco. Una sedia grattò il pavimento in cemento. Uno degli uomini alle mie spalle si alzò e cominciò a camminare lentamente avanti e indietro. Giravo la testa da una parte all'altra, cercando di seguirne i movimenti. Avanti e indietro. Avanti e indietro. «Signorina Saberi», disse la voce cupa e intensa del mio baziù. «Se non collabora, sarà condannata a 10 anni di carcere, che potrebbero anche prolungarsi per altri 10». Fece una pausa in modo che quelle parole facessero breccia nella mia mente. Mi riempirono le orecchie e cominciarono a sommergermi. 10 anni? 20 anni dietro le sbarre? Cerchi di immaginare come sarà dopo 20 anni di prigione. Quando verrà rilasciata, sarà una vecchia. Per quanto volessi ignorare quell'atroce prospettiva, la mia mente correva all'immagine di una 50enne dai capelli grigi, debole, emaciata, ebete, inetta. La minaccia di Yavan sembrava assolutamente seria. Mi rannicchiai ancora di più al mio posto, come se il banco potesse proteggermi dalle parole penetranti della gente. «Sicuramente non avrà l'aspetto che ha ora», continuò il baziù. «Non potrà restare giovane in eterno». I passi si fermarono. «Ha mai pensato di poter finire in prigione?» chiese. «No», dissi con voce roca. «Mai. E ancora non capisco perché sono qui». «Sì, invece». «No, davvero», dissi. «Pensavo che se aveste avuto delle domande da farmi, mi avreste interrogato e poi rilasciato, non messo in prigione». «Beh», disse lui con una risatina sarcastica, «volevamo vedere se avrebbe cambiato sistemi. Quando abbiamo capito che non l'avrebbe fatto, abbiamo dovuto arrestarla». Le sue parole mi confusero. Non riuscivo a capire perché mai gli importasse se avrei cambiato sistemi, visto che conosceva la mia intenzione di lasciare presto il paese. Se davvero ero una così grossa minaccia per la sicurezza nazionale, non aveva senso che per arrestarmi avessero atteso fin quasi alla mia partenza. Avrebbero potuto farlo facilmente mesi o anni prima all'aeroporto di Teheran, durante uno dei miei frequenti viaggi, come talvolta avveniva con docenti e attivisti che entravano o uscivano dal paese. Gli uomini dietro di me avevano cominciato a bisbigliare tra loro. Tesi le orecchie, ma non riuscii a capire cosa dicevano. La stanza era diventata calda e l'aria pesante. Appoggiai il capo sul palmo destro e col chador mi asciugai il sudore sopra le labbra. Erano 2 giorni che non mangiavo praticamente niente e sentivo indebolirsi corpo e mente. Poi parlò Yavan con voce molto bassa. «Signorina Saberi, il suo reato è molto grave. Lo spionaggio può essere punito anche con la pena di morte». Sentii il cuore martellarmi in petto e mi si seccò la bocca. L'Iran era il secondo paese al mondo dopo la Cina per numero di esecuzioni capitali. I gruppi che difendevano i diritti umani sostenevano che molte di esse avevano luogo dopo processi irregolari o addirittura senza processo alcuno. Impiccagioni collettive riempivano i titoli di testa dei giornali e molte delle vittime erano accusate di traffico di droga e rapina a mano armata, sebbene gli attivisti dei diritti umani ritenessero che in alcuni casi si trattasse di prigionieri politici. Talvolta venivano giustiziati minori, come anche prigionieri accusati di reati contro la sicurezza, tra cui un promotore iraniano che operava nel settore delle telecomunicazioni, accusato di spionaggio e impiccato nel 2008. Le impiccagioni, alcune delle quali avevano avuto luogo a Evin, erano spesso eseguite in segreto. Se fossi stata giustiziata, forse non l'avrebbe mai scoperto nessuno. Obiettai debolmente. «Non capisco. Cosa volete esattamente da me?» Yavan rimase in silenzio per un momento, poi disse: «Forse possiamo raggiungere una sorta di accordo. Primo, confessi di aver raccolto informazioni segrete per la CIA», disse. «Ma non è vero». «Secondo», continuò, «possiamo servirci dell'aiuto di persone come lei». Quell'espressione non mi piaceva. «Dove vuole arrivare?» «Lo sa, ci aiuti», replicò. «Raccolga informazioni utili per noi». «Su cosa? Su chi?» «Stranieri, diplomatici, altri giornalisti. Intende», balbettai, «che volete che faccia la spia per voi?» «Non chiamiamolo spionaggio», disse lui. «Diciamo collaborazione». Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Roxana Saberi, Prigioniere in Iran. Newton Compton Editori, 320 pagine, €14,90.